l'altra Europa. Benvenuti all'altra Europa, eccoci qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, l'Europa da vivere, l'Europa da respirare, l'Europa da conoscere, l'Europa che quotidianamente viene raccontata e narrata da Radio 24 nella sua attualità politica ed economica. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, cerchiamo di fare approfondimenti, cerchiamo di giocare anche con la cultura europea. Un programma in collaborazione con Euronet, il network di radio europee che cerca appunto di fare vivere quello che è lo spirito europeo. Tra l'altro un appuntamento importantissimo per Euronet, perché non so se vi ricordate questi cinque nomi, li abbiamo già conosciuti: Andrea Purcaria dalla Romania, Elena Roda e Jessica Verstulli dall'Italia, Falk Steinborn dalla Germania, Haudo van de Wove dal Belgio. Sono i cinque giovani che si stanno contendendo gli Euronet Award, questo concorso di giornalistico con spirito, questo concorso giornalistico su tematiche europee. Il 31 gennaio, quindi tra pochissimi giorni, al Parlamento Europeo a Bruxelles ci sarà la premiazione davanti a Schulz, davanti a vari commissari. Ci saremo anche noi, ci sarà il nostro Sergio Nava che seguirà tutta la premiazione, e sabato prossimo daremo voce ai vincitori. Come sempre www.euronet.org e o l'indirizzo per conoscere il network al quale apparteniamo, e con orgoglio si parte ogni settimana un viaggio in Europa. Oggi la prima tappa è la Croazia. Quando alla redazione, quando a Margherita Ina ho chiesto di cercare una musica croata, credo sia andata a spulciare nella versione croata di X Factor, e con questa musica entriamo nel clima, andiamo a Zagabria, e con noi un giornalista, un perfetto conoscitore di tutte le questioni balcaniche e croate in particolare. Diamo il benvenuto a Franco Dota. Ciao Franco, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi a Milano. Una settimana importante quella che si è appena conclusa in Croazia, una settimana che si è aperta con un referendum. È stato chiesto ai cittadini: avete voglia o no di entrare nell'Unione Europea? Cos'è successo, Franco? Sembra di sì, anzi con il 66% dei sì al referendum tenuto domenica scorsa in Croazia, i croati hanno detto di voler aderire in pieno all'Unione Europea a partire dal 1 luglio del 2013, dunque 66% delle persone ha detto sì, il 33% però si è dichiarato no. Il referendum è valido e la Croazia a questo punto sta per praticamente entrare in pieno nell'Unione Europea. Allora, questi sono i numeri, quindi comunque 2 su 3 hanno detto sì, una percentuale di votanti comunque molto bassa, sia la più bassa di tutti i referendum per l'adesione alla Commissione Europea. Di fatto questo è stato, diciamo, l'unico dato anche così negativo che anche è stato abbastanza preoccupazione, molte interpretazioni diverse sul perché ad andare a votare è stato soltanto appena il 43,55% dei 4,4 milioni di aventi diritto al voto, e fino a domenica scorsa il tasso più basso mai registrato in qualsiasi tornata elettorale tenuta in Croazia, cioè qualsiasi elezione mai tenuta in Croazia negli ultimi 20 anni, che sia referendaria o elezioni politiche, locali, presidenziali, mai così poca gente è andata a votare, e questo comunque è anche un dato rilevante. Certo. Tra l'altro, Franco, adesso una nota di colore, notavo che ci sono più votanti che abitanti in Croazia, come mai? Sì, questo è per due ragioni: una, perché i registri degli elettori, dei votanti, non sono stati aggiornati come sarebbero stati dovuti, come l'amministrazione pubblica avrebbe dovuto fare, e qui si suppone che comunque 300.000 persone sono di più. E poi c'erano poi c'è anche un dato rilevante, più importante per il referendum, che vota anche la diaspora croata, ovvero tutti i croati che vivono all'estero, che sono emigrati per varie ragioni economiche o personali negli ultimi 20, 30, 40 anni, hanno la cittadinanza croata, anche dall'America all'Italia, dall'Australia a vari altri paesi, e anche i croati in Bosnia e Erzegovina, dove comunque la popolazione croata rappresenta un 10% della popolazione. Dunque loro sono, anche loro sono, dunque, hanno avuto il diritto al voto, però si è notato che non sono andati a votare, anzi il tasso di partecipazione all'estero è stato appena del 5%, dato che viene interpretato comunque come buono, perché la decisione finale, se la Croazia, quelli che vivono in Croazia vogliono andare a votare, vogliono entrare in Europa, comunque spetta alle persone che vivono qui. Certo, assolutamente. Se questi dati si prendono in considerazione, dunque il registro e la diaspora, comunque il tasso di partecipazione è stato superiore al 50%. Ecco Franco, ma al di là dei numeri, tu vivi lì, quindi hai anche conoscenza e percezione del polso della situazione. E c'è voglia d'Europa? È un'opportunità? È una necessità? Qual è un po' l'approccio della popolazione? Guarda, secondo me hai detto le due parole chiave, opportunità e necessità. Quelli che hanno votato no probabilmente l'hanno fatto votando un po' con la paura di questo momento economico e politico in Europa. E la paura, si sa, non è sempre il sentimento che spinge a prendere decisioni razionali, però gli altri, il 66% che ha votato sì, ha votato senza l'euforia, senza l'entusiasmo, senza l'ottimismo che hanno contraddistinto le precedenti fasi di allargamento dell'Unione Europea, specialmente nel 2004 quando sono aderiti 10 altri paesi dell'est europeo e nel 2007 quando hanno aderito la Romania e la Bulgaria, perché ovviamente la gente sente le notizie e vede che in Europa le cose ci sono dei problemi, non soltanto con l'euro, ma tutta un'altra serie di problemi economici e politici abbastanza profondi. Però dall'altra parte la Croazia è così profondamente immersa nell'economia e nella politica europea, diciamo che di fatto già ne fa parte, anche se non di legge, anche se non formalmente, e allora la decisione è stata, diciamo così, pragmatica. Ok, non si sa come va a finire neanche questa crisi, nei problemi con l'euro, dei debiti sovrani di alcuni paesi, però noi di fatto ci siamo dentro. Se questi problemi se questi sono dei problemi, non so, dell'Italia, della Germania o della Spagna, sono anche i nostri, allora meglio starci dentro e risolvere i problemi insieme se si possono risolvere. Franco, grazie davvero per averci fatto un po' il quadro della situazione. Seguiremo la Croazia in questi mesi di avvicinamento all'ingresso nell'Unione Europea, quindi ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Ciao, ciao, grazie. Europost-it. Progetto Leonardo in turismo giovanile. Manda il curriculum e parti con U-Tour. Ti sei appena diplomato in servizi turistici e vuoi fare un'esperienza formativa in un paese europeo? La cooperativa sociale Mistral Onlus si fa promotrice di 36 borse Leonardo per tirocini nell'ambito del turismo dedicato ai giovani. Il progetto Leonardo copre le spese di viaggio, vitto, alloggio, formazione, prepartenza e assicurazione e assegna ogni tirocinante ad un'azienda qualificata che lo avvierà ad un'esperienza professionale entusiasmante. Le destinazioni? Si può scegliere tra Spagna, Francia, Irlanda e Regno Unito. La partenza è prevista per aprile inoltrato, ma è possibile fare domanda entro il 24 febbraio. Per scaricare informazioni e i moduli di candidatura, visitate il sito mistralcoop.eu e cliccate sulla sezione Stage con Leonardo da Vinci. In bocca al lupo! A Ceresciana. Allora, io sono nato il 12-12 del 1925, sono nato qua, come vi ho detto, all'inizio di via Caravaggio, lì c'era una strada, cioè c'era una casa proprio nel mezzo dell'attuale via Caravaggio, che si chiamava, quella zona lì si chiamava La Luna. Ah, io sono nato a Segalare. Poi ho fatto le scuole, Castellaiano, 9 anni, siamo andati a Sperticano, in Colulla, il potere da contadini, insomma, eravamo in 7 fratelli. Io sono nato al palazzo. Sono voci, sono storie, sono racconti, soprattutto sono persone che mantengono viva la memoria. Ieri era la giornata della memoria in tutta Europa, tantissime iniziative molto belle, molto significative, anche innovative. Volevamo quindi non tanto fare il punto su quello che è stato fatto, ma su quello che si farà e anche su altri valori che hanno la memoria. La memoria non è solo ricordare, la memoria è anche un approccio, la memoria è anche cambiamento, la memoria è anche tendere a nuovi modelli, per esempio, di cittadinanza. E per fare questo abbiamo invitato Marzia Gigli della Scuola di Pace di Montesole. Siamo a Marzabotti, in provincia di Bologna, un luogo più che simbolico quando si parla di memoria, proprio perché fanno progetti non solo in Italia ma in tutta Europa, in una sorta di rete dei siti, degli spazi di coscienza, perché memoria e coscienza e consapevolezza devono andare insieme. Ciao Marzia, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Ciao a voi, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori e a te. E Marzia, voi con la vostra Scuola di Pace, abbiamo già pubblicato la nostra pagina in Facebook, fate attività quotidiane su quella che è l'educazione alla pace, che è l'educazione alla convivenza, che è quello della memoria, insomma tantissimi progetti anche con varie sfaccettature. Però appunto abbiamo scoperto che Montesole è uno dei 3 unici posti in Europa di questa rete dei siti di coscienza. Che cos'è? Ce la vuoi presentare? Sì, innanzitutto, prima di tutto fammi salutare le persone di cui hai fatto sentire le voci. Alcune di loro sono ancora tra noi ed è il punto di partenza del nostro lavoro fondamentale, quindi le voglio salutare. E, sì, l'International Coalition Sites of Conscience, Coalizione Internazionale dei Luoghi di Coscienza, che ha diverse reti regionali, tra cui una rete europea dei siti di coscienza, che nasce nel 99 e da alcuni luoghi di memoria, alcuni luoghi storici si riuniscono e cominciano a riflettere sulla possibilità che la memoria non rimanga solo commemorazione, ma che possa parlare al presente. Questo succede con diversi luoghi, dal Sudafrica all'Argentina, dagli Stati Uniti alla Russia, e veramente coinvolge di tante storie differenti che hanno però in comune la violenza, una storia di violenza dell'essere umano sull'essere umano. Certo. Ed è proprio questo il nucleo di quella coscienza che dicevi, cioè e interrogarsi profondamente sulla propria umanità, sull'umanità che è in grado di compiere il bene, se vogliamo parlare con parole altisonanti, o compiere il male. Ed è questo, secondo noi, il lavoro di memoria, secondo la coalition dei siti di coscienza, proprio dove il luogo di memoria diventa un luogo di coscienza nella misura in cui è in grado di interrogare profondamente la coscienza umana. Certo, e questo progetto è appoggiato anche dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, anche qui il FRA, sì. Anche qui tantissime attività. E tu stessa so che sei appena tornata da Berlino, dove appunto tra i progetti che portate avanti c'era anche questa, una conferenza tra i giovani, se ho ben capito. Sì. Sì, devo dire che effettivamente negli ultimi anni, negli ultimi possiamo dire decina d'anni, la coalition ha avuto un ruolo, diciamo, di un po' di pioniere, no? Sul cominciarsi a interrogare su questa connessione tra educazione sui luoghi di memoria ed educazione alla cittadinanza e ai diritti umani. Da quel momento, cioè dalla fine degli anni 90, inizio del 2000, ci sono state diverse agenzie ufficiali, ma tante associazioni, tanti luoghi di memoria che hanno cominciato a riflettere su questo. Cioè, noi facciamo della commemorazione e basta, che va benissimo, ma che rischia di rimanere un po' sterile sul presente, oppure possiamo andare oltre. E qui la FRA, Agenzia dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, da circa 3 annetti ha cominciato a interrogarsi e a riunire luoghi della memoria europei proprio per interrogarsi su questo. E 3 anni fa siamo stati convocati a una riunione di esperti e poi ci sono state 2 conferenze europee, una a Terezin, in un luogo della memoria europea piuttosto tragico, era un campo di concentramento nazista, che però era un campo dove poi furono fatte, era tenuto tipo modello per farlo vedere all'esterno, che in realtà non era nulla di male, ha una storia particolarissima Terezin. E poi ad Amsterdam, quella che stavi ricordando tu, a Berlino, dove da poco sono tornata, è stata organizzata dall'Anne Frank House di Amsterdam, proprio sempre su questa, per riflettere su questa connessione. E se posso, è stata secondo me la dimostrazione, questa conferenza, che se noi rimaniamo come luoghi della memoria e come giornate della memoria sul passato, rischiamo di, non dico di fare un lavoro inutile, perché questo non si può dire, però nel senso che non è vero, però rischiamo di fare un lavoro che non è educazione alla cittadinanza, cioè sai quel mai più che si dice, sì, si deve ricordare perché non succeda mai più, no? Che si ripete sempre durante le giornate della memoria, eccetera. Ora, perché non succeda mai più, forse, ed è il nostro lavoro fin dal 2002, forse bisogna attivare quella riflessione umana sul perché è stato possibile. Mm-hmm. Se non parti da lì, se non parti dal come degli esseri umani hanno potuto esercitare violenza su altri esseri umani, come l'hanno fatto? È stata una cosa così dal giorno alla notte, oppure invece è stata una lunga preparazione? Ecco, secondo noi, se non fai questo, e non proteggi neanche i diritti umani. Insomma, quindi, mi sembra veramente un salto culturale anche importante, no? Anche un approccio innovativo nelle metodologie. E Marzia, il modo migliore per conoscervi credo sia il vostro sito, vero? Adesso sto pubblicando tutti i link, sì, con che Montesole, Montesole.org, e tu però e insieme al tuo staff, insomma, fate tante esperienze europee, quindi ti rinnovo l'invito a, insomma, vorremmo seguirvi nel vostro operare in giro per l'Europa, perché credo che anche questo sia un modo per fare una nuova Europa, per fare una cultura europea che sia davvero vera. Credo di sì. Ti racconto un aneddoto, certo, sulla European Youth Conference di Berlino. Stavo facendo uno dei laboratori che con insomma, tutto il team della Scuola di Pace ha preparato in questi anni, un lavoro proprio di squadra, e stavo facendo riflettere su quello che dicevo prima, cioè come è stato possibile, cioè quel soldato nazista che ha ucciso a Montesole, piuttosto che i campi di sterminio nazisti, quelli che li hanno perpetrati, quelli che li hanno organizzati, quelli che hanno agito la violenza là, avrebbero potuto scegliere diversamente, cioè partendo dai fattori che li hanno condizionati e dalla loro umanità, avrebbero potuto fare una scelta differente. Per me questa era la domanda chiave. Uno dei ragazzi impegnati lì si è estremamente arrabbiato e mi ha detto: questa domanda non ha senso, perché quella storia è successa ed è inutile adesso chiedersi se una scelta differente avrebbe potuto esserci. Ora, per me questo è problematico, cioè se un ragazzo che ha fatto della commemorazione, del studio della memoria del passato anche un suo obiettivo, perché lì era tutta, diciamo, gioventù, ragazzi impegnati, no? Sì. Mi dice che questa domanda non ha senso nel mio passato, ma anche nel mio oggi, nella mia quotidianità. Per me c'è un problema. Se un ragazzo croato mi dice che in Croazia non c'è discriminazione perché sono tutti dello stesso background etnico e religioso, c'è un problema sull'educazione alla memoria. Assolutamente. Grazie davvero. Grazie a voi. In bocca al lupo per il vostro lavoro quotidiano, molto importante, soprattutto con i più giovani e coi più piccoli. Ciao e buon sabato. Buon proseguimento. Ciao. Era bello tornare. dolce il pensiero. La retata del velodromo d'inverno, uno degli episodi più tristi e vergognosi della storia francese, raccontata in musica, l'altra Europa. Le parole e la voce sono quelle di Vittorio Merlo, cantautore italiano ma da anni residente nel Lussemburgo, dove fa il bibliotecario per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed è uno dei cantautori più ascoltati e più scaricati in rete, ed è qua con noi. Ciao Vittorio. Ciao, buongiorno a tutti, saluti a tutti dal Lussemburgo. Già il tuo sito, ho appena pubblicato il link sia su Twitter @FedericoTadia sia sulle nostre pagine in Facebook, da già un segno forte del tuo essere europeo dentro, perché canti in più lingue, scrivi in italiano, ma sei ormai l'Europa, tu la respiri, l'Europa la canti, l'Europa la narri, la vivi, è molto bella questa dimensione, e tra l'altro lavorando anche come bibliotecario, adesso magari ci racconti un po' la tua storia. Partiamo da questa canzone, però, come mai il velodromo d'inverno per fare memoria? Beh, questa canzone nasce dalla giornata della memoria e nasce dalla radio, perché è nata qualche anno fa ascoltando una trasmissione francese su France Info, andando a lavorare giustamente. Nel giorno della memoria intervistavano una delle sopravvissute alla retata del velodromo d'inverno, e è sopravvissuta perché è arrivata a casa 10 minuti dopo la retata e quindi ha trovato la casa vuota, i genitori, i fratelli spariti, non più ritrovati, e raccontava questa testimonianza incredibile. E io mi sono talmente commosso sentendo questa testimonianza che ne ho scritto una canzone, tra l'altro una commozione anche partecipativa, perché è una canzone di una testimonianza, una canzone di speranza, perché lei, l'istinto principale dopo aver subito questa retata è stata quella di uccidersi, e poi invece quando stava per buttarsi giù dalla casa ha detto no, io rientro nella vita e farò nuove vite, e ha fatto 5 figli, e io ho 5 figli, e lei dice appunto, quelli che mi hanno tolto la vita io ridò la vita dando la vita dei figli, che testimonieranno un modo di vivere diverso. Quindi veramente mi sono sentito molto coinvolto, e di solito le mie canzoni nascono dalle emozioni che provo, e mi è sembrato giusto trasferire in musica, perché come diceva la persona che avete intervistato prima, è importante testimoniare, ma non solo con la tristezza, dando speranza e ricordando e dando speranza che si può essere diversi. Certo, cantautore, cantastorie, menestrello, così ti presenti, tutto ciò dal Lussemburgo. È una storia curiosa la tua. Cosa ti ha spinto ad andare a fare il bibliotecario in Lussemburgo? Ma è un po' il caso, nel senso che il mio lavoro è il lavoro di bibliotecario, l'ho fatto per anni nell'internat milanese, io sono di Milano, poi ho lavorato per 7 anni alla biblioteca dell'Università Bocconi, e ho incontrato mia moglie, che è tedesca, che mi diceva non si possono educare i figli a Milano, che non ha abbastanza verde, ho iniziato a cercare. Mi ha convinto, quindi ho iniziato a cercare lavoro in giro, e per caso ho fatto un concorso dell'Unione Europea che ho vinto, e a quel punto il caso un pochino, un caso, ho scelto di fare il concorso, però di solito uno li fa senza speranza, invece è andato bene, e quindi ormai sono dal 1994 che sono in Lussemburgo, però tenendo stretti molti miei legami con l'Italia, tant'è vero che anche la mia attività di cantautore parallela, diciamo, lo testimonia. Poi in realtà il lavoro in biblioteca è molto bello e molto interessante, quindi faccio anche un lavoro che mi piace molto. Ecco, e che Europa respiri da questo doppio osservatorio? Il primo osservatorio è quello del bibliotecario, quindi comunque dove passa la cultura, anche magari settoriale, però insomma l'Europa tu la leggi quotidianamente, e poi dal Lussemburgo, nel senso, è un'Europa privilegiata quella che vedi e che vivi tu? Beh, sicuramente il Lussemburgo è uno dei paesi che ha il tenore di vita più alto, quindi anche quando c'è la crisi c'è meno crisi che in Italia o in Grecia o in Portogallo, però è anche vero che si vive un'esperienza europea molto forte, perché c'è una grossa multiculturalità, ci sono molti frontalieri che vengono a lavorare ogni giorno in Lussemburgo, dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania, e poi la stessa Unione Europea attira tantissime persone di ogni nazionalità, i miei colleghi sono di tutte le nazioni dell'Unione Europea, poi io lavorando in biblioteca sono anche molto nel melting pot, perché cerchiamo di avere tutte le varie lingue per poter catalogare, per poter seguire il mercato bibliotecario, librario e sempre di più anche su internet, banche dati, così, di tutte le nazioni, quindi abbiamo bisogno di avere anche la cultura linguistica e la cultura europea, quindi è sicuramente un osservatorio privilegiato. e si vede anche quanto sia importante l'Europa, nel senso che io ribadisco sempre agli scettici, pensate al costo della non Europa, se non ci fosse l'Europa, se non ci fosse l'Unione Europea, che disastro sarebbe. Ieri ti ho chiesto, ma hai mai cantato, hai mai scritto di Europa e hai scelto una canzone del tuo repertorio, ce la vuoi presentare? Allora, si chiama Sabato del Villaggio, che è stata pubblicata nel mio primo CD, e è una canzone che nasce proprio da un viaggio in Francia, sempre. Ho fatto delle vacanze in Normandia e un po' di anni fa ho visto alcune persone anziane che giocavano a bocce in un cortile, proprio come io vedevo quando ero un bambino nel paese, in provincia di Cremona, dove è nata mia mamma, dove c'era mio zio e altri che giocavano a bocce, e ho pensato, guarda come l'Europa poi alla fine si richiama dappertutto e ci rivediamo ancora, la nostra infanzia è ancora adesso. E così è nata questa canzone, che voleva testimoniare il mio percorso e la mia infanzia e il mio sviluppo all'interno dell'Europa, e così ho scritto questa Sabato del Villaggio, che è una canzone molto semplice, sono proprio ricordi legati a un'esperienza vissuta. Una pacca sulla spalla e li guarda curioso un bambino. Sole nel mese di maggio, sabato del villaggio. Sole nel mese di maggio, sabato del villaggio. Sono lì che giocano da cent'anni con lo stesso pallino. In Italia o anche in Francia, dappertutto nello stesso paesino. E ci piace sentirci anche noi un po' sabato in questo villaggio europeo. Un grazie a Vittorio Merlo, vittorio.merlo.lu, il sito lo trovate in tutte le coordinate nostre di internet, da Facebook a Twitter. La cosa bella di Vittorio, tu comunque sei in tournée, cioè fai serate, fai concerti in più lingue, giusto? Ti adatti? Sì, diciamo che le mie canzoni sono in italiano, però conoscendo tedesco, inglese e francese, a seconda dell'occasione posso presentarle, raccontare le mie canzoni prima di cantarle nelle varie lingue. Insomma, è fantastico questo come opportunità. Complimenti Vittorio. Grazie. Tenevo a ringraziare molto Roberto Manuzzi da Ferrara, che ha fatto gli arrangiamenti di questa canzone che avete appena trasmesso, che sono molto belli secondo me. Perfetto. Ciao e buon sabato. Ciao, buon sabato a voi, ciao. Europost-it. Diversità e affinità. Parti con i compagni per un viaggio in Europa. È un viaggio immaginario, fatto di parole e di disegni, quello a cui l'Associazione Arco Spazio Cultura, con la partecipazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, invita a partecipare. Parte infatti la quinta edizione del concorso nazionale Viaggio in Europa 2012, che premia i lavori degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori d'Italia. Il concorso è un'ottima occasione per approfondire con l'insegnante il tema dell'appartenenza all'Europa. I partecipanti dovranno immaginare di fare un viaggio in uno o più paesi dell'Unione e potranno scrivere un racconto o una poesia usando una delle lingue ufficiali dell'Europa, oppure potranno realizzare un disegno sul tema delle diversità e affinità culturali e linguistiche tra i paesi dell'Unione Europea. Per scadenze e ulteriori informazioni visitate il sito ec.europa.eu/italia/attualità. Ladies and gentlemen, we have done it. Today the European Commission adopted a comprehensive reform on the EU's data protection rule. With this reform, the European Union will create a real single digital market, accessible both for companies and for consumers. It will make Europe more competitive in this field, and it will make Europe an international standard setter. Con queste parole il commissario europeo alla giustizia Viviane Reding annuncia la riforma adottata dalla Commissione europea, la riforma della privacy in internet. Oggi, il 28 gennaio, è la giornata europea della protezione dei dati personali, e pochi giorni fa la Commissione ha adottato adottato nuovi provvedimenti, una riforma importante, una riforma che porterà molti benefici anche in termini economici. Per capire di cosa si tratta, qual è la necessità, qual era la necessità di questa riforma e quelle che saranno le principali conseguenze anche nella nostra quotidianità, abbiamo invitato Laura Corrado della Direzione Giustizia della Commissione Europea. Buongiorno Corrado e benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Insomma, credo sia complicato sintetizzare nelle poche parole una riforma e soprattutto legata a una tematica che è conosciuta ma non così tanto approfondita, perché per noi utenti della rete è quel tasto, no, che ci permette di dare il consenso quando ci chiedono di utilizzare i nostri dati. Cosa succede? In cosa consiste questa proposta di riforma? Diciamo, come diceva la commissaria Regni, uno dei motivi principali degli obiettivi era proprio di aggiornare, di rendere più moderni, soprattutto in questo, diciamo, ambiente ormai dove tutto è online, quindi i nostri dati sono online, di aggiornare le regole che abbiamo già, europee, che sono del 95, quando ancora internet era veramente agli inizi. E quindi in qualche modo abbiamo cercato di proporre degli aggiornamenti che abbiano come obiettivo, tra gli altri, di rafforzare anche i diritti delle persone quando vanno online e quando danno i propri dati per diversi usi, per comprare online delle cose, per iscriversi a un social network, eccetera. Quindi magari faccio qualche esempio, sì, per grazie, essere più concreta. Allora, innanzitutto abbiamo introdotto quello che chiamiamo il diritto alla portabilità dei dati, cioè non solo il fatto di poter accedere ai propri dati, ma anche in qualche modo di poterli ricevere in un formato che sia riutilizzabile e spostarli per esempio da un service provider all'altro senza avere ostacoli, quindi tutte le proprie foto, indirizzi mail, contatti, di riaverli in un formato che è riutilizzabile. Un altro elemento che noi proponiamo, che è molto importante, è il cosiddetto diritto all'oblio, di cui se ne è parlato tanto nei giornali, che è in qualche modo un rafforzamento del diritto ad avere i propri dati cancellati. Quando appunto si vogliono cancellare, non si dà più il proprio consenso a che questi dati siano trattati. E questo è un obbligo che esiste già, ma che noi cerchiamo di rafforzare, per esempio imponendo a chi ha disseminato questi dati, soprattutto via internet, di utilizzare tutti i mezzi tecnologici a disposizione per cancellarli, per eliminarli dalla rete. Invece esiste il diritto a essere cancellati, a essere dimenticati in rete? Noi cerchiamo in qualche modo di rafforzare questo diritto, che chiaramente ci sono dei limiti tecnici, anche legali, in cui ci possono essere dei motivi legittimi per trattenere dei dati, per esempio se un pedofilo cancella il suo profilo da un social network nel momento in cui è indagato, ci può essere comunque un termine entro il quale comunque i dati rimangono accessibili alla polizia per motivi delle investigazioni penali, però diciamo sono casi anche particolari. In generale, se una persona, un individuo normale in qualche modo dice voglio avere i miei dati cancellati, allora il service provider, il social network deve mettere in atto tutte le misure tecniche possibili per averli cancellati dove ne ha il controllo, e adesso i mezzi per disseminare e diffondere i dati sono molto potenti tecnologicamente, quindi questi stessi mezzi devono essere utilizzati anche per cancellare i dati, quindi è un rafforzamento del diritto alla cancellazione dei dati che già esiste, ma noi mettiamo degli obblighi più stringenti per in qualche modo assicurare l'eliminazione dei dati. Ho capito. E un altro... Sì, prego. Prego, prego. Sì, volevo dire un altro elemento anche importante, che ad esempio adesso non c'è un obbligo, quando c'è un hacker ad esempio che in qualche modo riesce a penetrare una banca dati e a rubare dati degli utenti, anche dati insomma sensibili, finanziari, eccetera, adesso non c'è un obbligo legale a livello europeo, se non per alcuni settori molto limitati, di informare innanzitutto l'autorità garante di protezione dei dati, ma anche l'individuo. Perché in alcuni casi questo può provocare ovviamente delle conseguenze molto negative, e noi proponiamo di introdurre questo obbligo generale di notificare nel più breve tempo possibile l'autorità garante della protezione dei dati, ma anche l'individuo quando questo ha conseguenze dirette negative su di lui. Quindi anche questa è una cosa, diciamo, un elemento molto importante. Perfetto. Altri elementi sono ad esempio la trasparenza. In qualche modo prevediamo un obbligo che tutte le informazioni, soprattutto online, ma non solo, vengano date in maniera molto chiara, intelligibile, in modo che la persona capisca cosa sta facendo, per quale motivo dà i suoi dati, come saranno utilizzati, da chi, cosa che adesso insomma non è sempre molto chiaro, diciamo. Insomma, le notizie sulla privacy sono abbastanza astruse a volte. In sintesi, a che punto siamo dell'iter legislativo? Però sono solo proposte, questo è che la Commissione ha, come lei diceva, ha proposto qualche giorno fa. Adesso ci sarà, ovviamente, come tutte le proposte dovranno essere approvate per quello che riguarda l'Europa, sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio dei Ministri, quindi ci vorrà un periodo che sarà minimo, diciamo, un anno, in cui sia il Parlamento europeo che il Consiglio dei Ministri dovranno accordarsi e avere un accordo politico su questo testo. Noi speriamo, insomma, che possa essere fatto nel più breve tempo possibile e soprattutto che questi elementi importanti vengano mantenuti, forse anche migliorati, ma insomma che l'ambizione rimanga alta. Perfetto, ma lei, Corrado, prima di salutarci, prima di acconsentire o prima di accettare, quando entra in un sito nuovo, fa un acquisto, legge tutta la licenza, le legge queste cose? Quando mi occupo di privacy, protezione dei dati, sì, prima sì. Non lo facevo. Adesso che sono più cosciente di quello che può essere fatto con i miei dati, sì, lo faccio sempre. Ecco, questo credo sia un insegnamento importante per tutti noi. Grazie davvero per la disponibilità, buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederla. In Guimarães nasceu un príncipe europeo che fundò un paese. Da memória desse tempo, ficou um amor intenso pelo património e por uma terra de paisagens verdes e bonitas praças de pedra. Ficaram as gentes alegres, tão diversas, ricas de tradições, cidadãs da Europa dos cafés, dos caminhos, das igrejas da arte e da criação. Foi por todas as... 50.000 abitanti, é o capoluogo del Departamento della Valle dell'Ava, 150 km da Vigo. Stiamo parlando di Guimarães, capitale europea della cultura 2012, insieme a Maribor in Slovenia. Nella crisi portoghese, quindi, questa opportunità, un anno di turismo, un anno di attività, un anno di eventi. E insomma, sì, a braccetto con le risorse che sono poche, no? C'è sempre questa diatriba, ok, c'è la crisi, però quindi non possiamo fare l'anno culturale, l'anno europeo della cultura, e no, partiamo proprio da lì per ricostruire, per crederci, per trovare nuove opportunità. Questo è un po' il pensiero comune tra le mille difficoltà, e tra i tanti che stanno collaborando a questo progetto, al calendario degli eventi, c'è anche un italiano, è il direttore artistico del Centro di Creazione per il Teatro e le Arti di Strada, e diamole benvenuto a Renzo Barsotti. Ciao Renzo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Credo sia una storia lunga e che parte da lontano, quella che ti ha portato in Portogallo, vero? Ce la vuoi sintetizzare con qualche immagine? Beh sì, effettivamente è una storia abbastanza lunga, che inizia nei primi anni 90, un'amicizia con lo scrittore José Saramago, che mi ha mantenuto qui in Portogallo fino ad oggi. In questi ultimi anni ho contribuito a sviluppare un progetto legato alle arti nello spazio pubblico, e nell'ambito di questa attività molte iniziative riguardano appunto anche la programmazione legata alla capitale europea della cultura. Ecco, cosa vuol dire fare arte, fare teatro per l'utilizzo, per la riqualificazione di spazi pubblici? Beh, insomma, lo spazio pubblico è uno spazio molto importante, lo spazio della convivenza sociale per eccellenza, ed è fondamentale l'incontro, no, della gente nello spazio pubblico, oltre che sui network sociali, insomma. E da questo punto di vista l'arte, la creazione può dare un contributo molto importante, un po' anche a quella rigenerazione dal basso di cui tanto si parla anche in Italia. Per quanto concerne in particolare la città di Guimarães, Io devo dire che parlo un po' anche a nome della Fondazione Guimarães del 2012, in particolare del suo direttore esecutivo Carlos Martins, che non parlando italiano mi ha pregato di farlo un po' anche da portavoce. Certo. Devo dire che questo concetto di rigenerazione urbana è uno degli obiettivi fondamentali della città. Una città come dicevi tu, di piccole dimensioni, la più piccola città capitale europea della cultura, che ha un grande passato, una grande storia, una città legata alla costituzione del Portogallo come stato indipendente, con un recente passato di relativa prosperità economica, e poi con la crisi il problema veramente di ripensare la città. Da questo punto di vista, un'opportunità come la capitale europea della cultura è stata interpretata appunto come uno strumento fondamentale per ripartire, certo. Per ripartire, certo. E Guimarães 2012.pt, il sito e anche quello del tuo centro abbiamo già pubblicato nelle nostre pagine in internet. Un ciao e un grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Margherita Ina, Viola Frifa, Giorgio De Luca, Roberto Scaltritti, Alessandra De Luca per le voci dei post-it. Questa è la squadra dell'Altra Europa. A sabato prossimo, ciao.